Ciao Cla. Ah? Ciao Claudio. Chi è? Oh, chi è? Tonino. No, ti ascolto male. Questa è la radio. Minchia, è troppo barattoloso, Tom. Ma cos'è il drone? Scappa. Vabbè, no, possiamo regolare, non c'è niente da regolare. Hai cosa da regolare? Aspetta. Ciao Claudio. Ciao. E vai Cla, tutto a posto. Ehi Dani, guarda come senti a Tonino tu, io lo sento tutto impastato, tutto barattoloso, guarda come lo senti tu. Ciao Danilo. Sento una voce troppo cupa. Non mi piace Tonino, è meglio il microfono normale. Non mi piace il microfono normale. Cazzo Tonino, vai te fermalo. Sei tutto impastato, vero? Più bello così, così non mi riconoscono. Io ti riconosco, è bello farsi riconoscere, ok. E tu poco fa non mi hai riconosciuto, chi è, chi è? Non ti ho riconosciuto neanche io, perché c'è una motivazione completamente diversa. Ma nel senso diversa fosse stata bella, ma non è bella di blu più. È cupa, impastata, non hai tonalità, nuda. Andare così. Avanti Dani. No, come voce è troppo cupa, rimane troppi bassi, c'ha, rimane troppo chiusa come modulazione di voce. È così, rimane più stretta la voce, e beh, adesso rubando un po' di microfono. No, non ti offendere, a me non mi piace, non riesco quasi a capirti. Ehi, la lascia così, sono fatto, e questo va bene per il coso, per il presidente, capito? Ho visto che va bene anche qua, l'ho lasciato qua, ma qua siamo solo tre fili, non quattro, come attualmente ce li ho. Ma questo adesso tu cosa stai usando, il Presidente o il Galaxy? Galaxy. Certo, ma il tuo era una bomba il microfono, Tony. Questo col Galaxy era una bomba il tuo, il tuo microfono. Anche questo era una bomba. Andiamo. Se lo dici tu allora, va bene, io ti ascolto malissimo. Ciao Luca. Buonasera a todos. Ciao Briceche. Ciao Brice. Ciao Manopola del Piede. Ciao Dani. Tonino Pedivella. Oh yeah. Luca Manopola spinta. Tonino Pedivella. Tonino Pedivella di Kawasaki. Radio. Oh yeah. Guarda come ascolti a Torino, io l'ascolto male. Prova, prive. 1, 2, 3, prova di modulazione. No, sento benissimo, Cla. Benissimo, bel forte anche. Io lo dico. Non so. Non lo so, lo sento cupo, è molto cupo. Vabbè, comunque, se va bene a lui, va bene a tutti. Avanti, Torino. Oh, Danilo. Anche io così lo sento cupo, Luca. Non molto, però un pochino cupo si sente qua. Riprova, Tony. 1, 2, 3, prova di modulazione. Oddio, non è cupo, è... Ha fatto camera, là. Se volete c'è la mare in camera chiusa, una camera più piccola, buh. Però va bene, è abbastanza comprensibile. Che Gianni mi ascolta bene. Gianni, doppio ru. Scappa. Chi sei Gianni? No, l'altra volta mi ascoltava bene, ho provato il suo microfono. No, va bene, è abbastanza forte. Non è che sia una delle migliori, però già va bene, dai. Ma boh, è cosa vuoi dire, che io così l'ascolto, non so, vabbè, comunque, importante sia comprensibile, poi già va bene. E beh, Dani. Aspettate un attimo, devo fare una cosa, sto subito arrivando. Cazzo Cla, stavo comprando una macchina, praticamente era un po' sbiadita, là, una vernice, bellina, 70.000 km c'aveva, di una signora che purtroppo si è allettata, non la usa più, CN targata, fai che sia il 2004, 2003, avevo appuntamento ieri sera, cazzo, ma mai mi ha mandato il messaggio, che praticamente il padrone se l'aveva già venduta. Io l'ho contattato di mattina, comunque ho chiesto a Mario, dato genere, vediamo un po', ci dovrò fare un salto un pomeriggio a vedere cosa c'hanno. Infatti me l'ha detto che dovevi andare, già me l'ha detto Mario ieri, che dovevi andare in concessionaria di da lui. Mario c'ha qualcosa di interessante, capito? Lui Mario già. 100 euro. Lui l'ho tutto messo a posto, ce ne ho speso altre 700 sopra, ma ne ho guadagnato 1000, raggiungo da 2-5 più passaggi. Beh, allora c'hanno questa Hyundai Matiz, mi pare, bianca. La stavo dando 900 euro, però c'ha 186.000 km, la differenza da Ghita, Matiz in Brescia, 70.000 km. Lo so, io ho detto procurarmi una smartina per spostarmi dentro città per non usare l'Alfa, capito? Adesso me la procura, una smart diesel, a pochi di là. Va bene. Senti a Mario, a me cosa ti dice, magari te la trovo. Io sono già portato il vecchio spugliatore, poco fa su, a Casanova, domani mattina, con l'aria, lei si pulisce tutto dentro, io mi taglio l'erba, poi venerdì sarei a Chianna, prendiamo lì, iniziamo a pulire tutto, piazzare i mobili per venire a piazzare i mobili e poi iniziare a portare, penso, dopo Pasqua, sono già andato a Casanova. Mi assenterò dalla radio un bel po' di tempo, perché abbiamo molto tempo, qui l'antenna lì non ce n'è, quindi pazienza. Avanti, Tony, riprendi. Mi ha visto che pescato che c'è. Oggi era bella mia della Renfa. No, domani mattina. Porto prima il cane domani mattina, verso le 8:30, poi dalle 9. Resto già. Ci stiamo tutto, taglio l'erba, pulisco tutto il giardino, perché poi devo mettere a fare il cancello, devo mettere a fare una passata di tinta agli sportelloni e una giura. E poi venerdì trasferisco a Filippo. Venerdì tutto il giorno ci portiamo anche a Filippo e rimaniamo lì. Perché poi alle 3:30 deve venire il peritto qua, la polizia è a casa e così. Finalmente incasciamo un'altra buglierina. Va bene, avanti Dani. Ah, comunque Cla, e Dani si è assentato, se l'hai sentito prima, stava facendo roba. Diciamo che quello che mi costa molto è l'assicurazione, perché se avessi qualcuno in casa con la macchina avrei preso il coso, come si dice, la cassa di meli, però. Avresti fatto legge Bersani. Io non te la posso fare perché non sei né mio figlio né mio fratello, se no te l'avrei fatta. Ah, ma può fare un fratello anche se non vive a casa? Certo, c'è l'assicurazione, basta che sia di casa te la può fare, sì, ma fai intestata a lui, non ho di famiglia, ci vuole, quindi percepisci, usufruisci della legge Bersani. No, deve stare nello stato di famiglia di mia madre, però. Beh, sempre dove l'ha detto, no, è a fronte dell'assicurazione. Che abbia lo stesso cognome. Anche se a lui l'assicurazione però, Sì, Giovannino allora, Carletto. Esatto, usufruisci della cassa di merito loro. Fai usufruisci della legge Bersani. Aspetta. Io l'ho fatto, allora, con la macchina che c'ha mio figlio. Praticamente prima mi sono informato, legge Bersani non potevo farlo perché mio figlio risiede a Fosala. Allora mi sono intestato la macchina io, ho assicurato due macchine e ho avuto più o meno la stessa classe di merito. Sì, si può fare, no, deve essere residente nella tua stessa città, capito? Anche se non è domiciliato, per dire, in via Grazia Vereda, domiciliato alla Terroce, non c'entra niente, però deve essere nella stessa città. Non lo può fare Luca, lo può fare. Con Carletto lo puoi fare. Ah, ma sicuro, se mi ha detto che deve essere domiciliato nello stesso nucleo familiare. No, stato in famiglia davvero. Tu e chi c'è? Io, mamma e Antonella, E Antonella non ne ha patente? Di gomma. E Stefano? Stefano non c'è. Stefano, ma per un manco mi parlo con lui. Nulla, niente da fare, non si può fare. Ah, è vero che Carletto abita a Porto Torres e Giovannino abita a Sorso, non puoi fare nulla. No, non c'è niente, è stato in famiglia, il parente che risiede nella stessa città, capito? Cioè per dire che Carletto era Sassa, la potevi fare con lui, perché è tuo fratello, lui abita a casa sua, però non la macchina appartiene a lui, capito? E fa la situazione anche stata a lui. Vabbè, quello là si abita a Sassa di Stefano, no? Un esempio ti faccio. Come si dice, anche se non è nota di famiglia nostra, va bene lo stesso, anche se lui ha motocarro. No, motocarro non rientra nella legge Bersani, capito, perché è carico motocarro, praticamente. Deve essere persone, non materiale. Vabbè, comunque me l'ho chiesto, così normale, assicurazione compresa con me, allora senza assicurazione con me 380, e sono 400 euro ogni 6 mesi. Così è, perché è la classe di merito alta, capito? Non si può fare, né con Carletto né con Giovanni, perché uno abita solo su un abbordatore di lupo. Potete farla solo con Stefano se fanno passare appunto la classe di merito dell'autocarro, allora puoi usufruire la legge Bersani. Niente da fare, pazienza. Aspettiamo, comunque ce ne sono anche su internet che si paga una cazzata. E la puoi fare anche online, poi una cazzata da sì. Io voglio 250 gabardini, ho accetto quella cassetta, non c'ho la quella online, pago. Mi pare 320 euro all'anno. All'anno, capito? Ma voglio 250 gabardini. Non dubbio di nulla giù mai. Vai. Io 115 cavalli, 85 kW, 190 ogni 6 mesi. I kilowatt sono quelli che. I kilowatt sono quelli che contano, capito? I cavalli, purtroppo le macchine sono così. Cappagatta, vabbè, comunque, dove va? Bisogna fare qualcosa. E io mi sono interessato in due macchine, fate conto con il mio figlio, per pagare poco. Io ero così lo stesso, più o meno ero così lo stesso, capito? Non vediamo com'è la situazione, no, io sto bene così, l'altra intanto c'era Ilaria, era una piccolina, mi prenderò, la sto cercando anch'io, testa a me, però io ce l'ho sospesa, l'avevo sospesa con la 600, non l'avevo tolta, capito? Quindi devo prendere la classe di merito che avevo. Sì, pure sospeso, ma se la sospendi deve essere sempre copertura di assicurazione. Se in auto non l'ho sospeso un mese, io credo che ho comprato un'altra macchina, però in attesa che davo la mia, non potrò passare sull'altra assicurazione, sull'altra macchina, quindi. E va bene, sospetto altri 6 mesi, pure la compro nuova e buonanotte. E ciccia, e chissà, ho la rotta meglio la regalo, però si deve fare un passaggio. Allora, se l'avrei presa, mi sarei messo d'accordo con Roberto, con lui ci paccata. È una macchina abbastanza nuova, poi 70.000 km, di una signora. Le gomme erano così andanti, ma le gomme sono male, cambiavo due e poi ne cambiavo altre due. Poi c'è buccia, mi è andata, pazienza. Sono tornato. Lo so, capita sempre così. Capita sempre così, è l'unica, vedi, uno che la deve rottamare, però quella di Tonino ad esempio è troppo grande per te, come consuma, vabbè, però non consuma niente, anche la mia, vabbè, cerca lui che già trovi, vedi un po' con Mario se riuscite a trovare qualcosa, già ne hanno sempre loro, avanti Dani. Oppure vieni da noi, macchine ce ne sono in quantità. Senza ruzzi, ma procurami una senza ruote, già gliele metto le ruote del carrello dell'Eurospin di mezzo. No, anche senza motore, senza meccanica, senza niente, solo la carrozzeria. E allora me la bacca giù, mi tira a casa, mi boso, ho detto, ma fammi vedere che va giù la macchina, che è mia. Mica da me cucimia, ero un curissimo di lavura. Trasporta pesce all'altra. No, dico, ma proprio che pesce al solito, mi pettinato, tutto bello vestito. In mare, ma che ce l'hai vestito a casa, così, in mare macchina va a Luca, perché non la muovi, perché non c'è assicurazione. E già lo sai, se non c'è assicurazione non la puoi neanche parcheggiare fuori, anche se io te la cerco i freggiani. No, ma io se faccio le cose fatte bene, avevo la vostra, problemi, no, già la vita è un problema, pensa, a voi i gatti con cui ti... A parte non è impossibile girare senza assicurazione, è impossibile, capisco su un motorino, vaffanculo, chissà, però su una macchina è impossibile. se capita che tocca qualcuno è un casino poi, no. Lei c'ha la IEBIA, la devo restare il 7 aprile, che mi scade il contratto e lo rinnovo di nuovo. Però se mi ammaccia qualcosa, dicevo una vita ma che ti sei messa trovata, ecco, non vede manco meno 10 euro di sconto, che cavolo. Sono per prima assoluta e non mi fate mai nulla. A me è buono per la faccia perché ciò che ho i caratteristi in omaggio, diciamo, entro 70 km. C'è il GPS dentro la macchina, la schiaccia pulsante per rispondere da fuori. Ma ascolta tu lì, ma stai cambiando la macchina? Quando prendo la liquidazione la compro nuova. Ah, ho capito. La macchina, bello è fare l'affare con una signora, soprattutto anziana. Abbiamo visto una signora anziana grande, si vedeva era buoni più di 75, forse 78 anni aveva. C'era una Ford Fiesta come quella della 25, nuova, turbo diesel, quella TDI. Nuova, una di quelle, vedi? Non so, però, ripeto. No, io ho deciso che la compro nuova, non me ne ha fottuta. Sono fissato con la Panda turbo diesel, cioè ho un diesel multigente che ce l'ha l'azienda. Dicono che non ne fanno più, ma se la trovo una scuola che c'ha pochi anni di vita, faccio come un parente. Sì, ci sono, basta richiederla, basta nel concessionario, se la vuoi prendere nuova, la richiedi e te la danno, capito? Cioè, penso che vi sia, comunque, vabbè. Vediamo, là. Perché io stavo pensando di prendermi uno scooterone provvisoriamente, un 125, pertanto non posso guidare oltre, massimo 11 kW, non devo superare gli 11 kW. Mi stavo vendendo un amico sta vendendo un Link 150, nuovo, 650 euro, ovviamente più il passaggio, che il passaggio è 100 euro. Sì, io 112, 113, era una cazzata, sì. Ripeti, no, io posso guidare anche un 2000 cilindrata al mondo, non c'è problema. Vabbè, io ho dal 74 la patente, quindi non ho problemi. Ho preso solo la patente B, ma valeva la B e la A pure. Oggi è tutto diverso. Tu c'hai ovviamente quello che ci vuole il patentino per la... Io ho 21 anni la patente, dal 99. Vabbè, avanti, là. Tu c'è quella... Invece abbiamo AB, capito? Quindi... puoi portare e vabbè KK avanti Dani. Allora il giovane c'ho qui quella partente 2001 anzi no 2003 è il più vecchio c'ho qui io anni 70 anche tu ci vici la dai se dai è di battente 54 anni la patente era 66 quanti anni sono febbraio 1966. Ciao Claudio, Danilo, Torino e Luca. Buonasera a tutti. Avanti qua. Io l'ho preso nel 78, fate il conto. Danilo è 1978, perciò penso di davvero un po' grande burguero, ma rispetto all'età è chiaro, tu sei più grande, quindi l'hai presa prima. Non è che sei più vecchio. Sì, di un mano le dai e giustamente l'hai presa prima di noi, però io l'ho presa nel 78. Tu, Tonino, in che anno l'hai presa? Io l'ho presa esattamente 74, mi sembra che devo partire anche militare e l'ho ritirata poi a dicembre perché sono un marcio di militare. No, ho fatto nulla, l'ho ritirata, il mollo era 6.000 lire, ma lo ricordo ancora, con Franco Bullo. Che era marroncino e giallo al centro. I sinulli, ma per carità, guarda che schifo. No, io l'ho preso nel 78, tu l'hai preso nel 74, perché tu sei 4 anni più grande, quindi normale. In base all'età, infatti sto guardando A e B. A, B, sì, A e B. Vabbè, era diverso prima. Avanti, ciao Giulio, intanto buonasera, ben ascoltato. Avanti, Luca. Ah, ciao Giulio. Ciao Tonino e ciao Luca De Prendi. E ciao Claudio e ciao Danilo anche. No, poi io, questo è nel 66, ho preso la macchina. Però avevo già la patente della moto da almeno 3 o 4 anni. Per cui, se si può immaginare, tant'anni so. 66 dovrebbero essere 54 anni, mi sembra. Più 3, 57 anni in tutto, dai, con la moto. Ma comunque, la moto ormai ha ai giovani, ai giovanotti che eri presto ad andare, è vero Tony? Allora io me la giovin tutta un po' faccia, mi sono divertito, poi troppa gente, amici, sono morti in moto, no, via, tutto fuori, mi sono divertito, quando mi sono divertito, ma ho avuto due big Kawasaki, a parte la tremata che ho avuto, ma è più grosso che ho avuto il Kawasaki 50 e il 500, quindi. Basta, non è più per noi, la certa età è mollato tutto, la schiena, quello, quell'altro, boom, basta. No, io di motorosse non ne ho avuto molto, ho avuto solo la Air Max 250, quella sì, però di solito io avevo gli scooter, tipo Lambretta, Vespa, queste, ho avuto l'Alpino, queste moto così che ho avuto, non mi ha mai entusiasmato la moto veloce, non lo so, forse la volta che ho comprato la Air Max 250 di cilindrata era camminava, all'epoca andava, mamma mia, però io la temevo, me ne sono disfatto subito in poco tempo. Avanti Dani. No, io lo stesso, però andavo da piccolino a fare compagnia a mia zia in via Pascoli da Signatore. Prima era lì dietro il monte, non dietro il monte, non mi ricordo mai come si chiama quella via, la parallela di via Pascoli, ed ero piccolino io, avevo 11-12 anni, e alla fine il signor Salvatore mi aveva detto a mia zia, perché non lo fai venire a prendersi la patente, e ho detto no, è piccolino, no, non c'è ancora l'età per prendersi la patente. Fatto sta che sono andato a prendermi la patente per conto mio, dopo un bel paio di anni che ero in via Pascoli, e mi ha detto, ma tu non sei quel ragazzo che veniva quando ero piccolino? Ho detto, sì, sono io, non si ricorda. E già mi ricordo di te. Vedi, se ti prendevi la patente da quell'epoca lì, a quest'ora avresti avuto la patente e te ne hai anche già dimenticato di fare tutte queste guide. Ho preso la patente e ho fatto l'esame di teoria e di pratica e mi ha chiesto, tra voi prendere la C e la D insieme? Ho detto no, non mi serve tra adesso la C e la D, mica dopo te ne penti che quelle patenti ti servono, no signor Salvatore, non mi servono. Ma ce ne sto piangendo di quelle patenti, allucinante, ragazzi, le mani me ne sto mangiando anche. Lo conosco molto bene, signor Salvatore Sedda, Salvatore Sedda, quello dell'autoscuola, sì, via Pasqua, e vabbè, ormai ci va da tanti anni lui, l'aveva venduta l'autoscuola a quello che c'è adesso, per cui, no, io l'avevo presa all'Olimpia, l'Olimpia lì vicino a San Giuseppe, lì vicino all'angolo più o meno di via Giugiatrune, dai, era lì l'Olimpia lì, no, perché c'è anche l'Olimpia qua vicino dove abito io, ma questo è Olimpia 2, quello là è Olimpia, e basta. Va bene, avanti Luca. Luca se sei fuggito, vai Claudio. No, io l'ho preso a Porto Torres. L'ho preso a Porto Torres io. KK, va bene. E io avevo un patrimonio a prendere la patente, mi sciuga. La mia figlia c'era la A e la B. Se l'ho preso quella anche della moto, perché c'era la moto poi. Quando si è comprato la macchina si era venduta la moto. Inizialmente avevo lo scooter per andare a scuola, quindi 125, e allora aveva il patentino della A. K, avanti, Tony, ripenti. K. Io ho preso all'inizio via Maurizio Zaffarino, Antonello Pito, 74, e mi ricordo bene, ho dato un acconto di 5.000 lire. In tutta la patente mi è costata 35.000 lire. Oggi ma chi ci può vedere con una cosa del genere? Ma. E ripeto, dovevo fare 24 guide e me ne ha fatto fare soltanto 3. No, sei già bravo, cosa? Perché io portavo già il camioncino di mio zio, Molletta, lo portava la birra, cioè lui. Mi ha imparato lui. E quindi, niente. Altri tempi, comunque. ero così soddisfatto, contento da patente, ma vabbè, ho preso soltanto la mia, che c'era anche là giustamente quel tipo. Poi tornando a Giulio della moto, Giulio, io avevo il Kawasaki 750 4 in 1, 4 carburatori, ma mi tenevo vinci. E dico solo una cosa, mi saliva un'adrenalina a 1000 quando camminavo, 240, non dico altro. Per carità, no, no, io ho sempre avuto paura, dunque no. Io al massimo che sono arrivato 160, 170, ma strade tipo come per dire davanti alla cementeria di Caraggioca, lì, ecco. Una volta che ho passato una Giulietta, era la Giulietta 90, la Giulietta. Ho fatto boh, basta, perché se non mi mantenevo bene la manubrio, adesso dal vento stesso della moto mi avrebbe fatto volare e la moto era andata contro Giulio pure. No, no, no, io ho sempre avuto paura, ho avuto sempre passione per altre moto, scooter, Vespa, Lambretta, queste moto così, belle moto, andavo tutto bello elegante, sai, quando sei giovanotto, con la ragazza in giro, eccetera, eccetera, e dunque non ti sporcavi niente. Bene, bene, bene, bene. Sì. Tu stai parlando di Antonello Pilo, hai detto, Antonello Pilo, il pesista, sì, ma io l'ho conosciuto, quello era istruttore di guida anche, che via è quella che c'è all'angolo di via, l'autoscuola che c'è all'angolo di via Giorgio Giacchini, non lo so, non mi ricordo, forse hai ragione tu, via Maurizio Zaffarino, Antonello Pilo, di quello stavi parlando tu? Sì, sì, proprio via Maurizio Zaffarino, appena entri a sinistra, cosa fai? 10-12 metri, non più. Antonello Pino, esattamente. Era proprio stempiato. Allora, io ho abbassato il volume prima. Allora, io nella patente ho segnalata AM e ho letto su internet che posso guidare i ciclomotori, i cinquantini, ma io posso guidare anche il 125 con la patente B. Cioè, non ho solo ciclomotori, che ho superato il 4,5 kW. Vabbè, quella è la solita patentina del motorino, chiamiamolo motorino, dai. Sì, no, no, la patente della moto che ho io posso guidare tutte le moto, qualsiasi cilindrata e qualsiasi macchina, ovviamente. Stavo dicendo, Tony, quando Antonello Pilo, tra l'altro, eravamo colleghi di palestra, perché lui faceva il sollevamento pesi, faceva, era un peso leggero, e mi ricordo benissimo di Antonello Pilo, io voglia, vabbè, eravamo nella stessa società, nella polisportiva Strarese, lui era pesista e io facevo il marciatore, perché ci conosciamo da 60 anni più o meno. Bene, avanti qua. Beh, ero di fronte, io ero in via Spruni, mi associavano negozi in via Spruni, veramente delizia. G. Simula, veramente delizia. Conosco anch'io Antonello Pilo, conosco. KK, non so se è morto. Se c'è ancora la scuola, se ormai si è abbassato anch'io, non lo ricordo più. Va bene, va bene. Sì, no, lui informa, sì, sino a 125 puoi guidarlo tu con quella patente lì, capito? Però altre 250 ad esempio non lo puoi guidare se non c'era. No, ma anche il 150 non lo puoi usare. Sì, lo so, non devo superare gli 11 kW, lo so. E poi stavo guardando a vedere, riprendimi la patente che posso guidare 150 e 250 massimo, no? Il più grosso non mi interessa, perché se vai a prendere la patente A, proprio la A1, no? Perché c'è la A, vabbè non c'è niente più la A1, adesso è patente A, che può guidare tutte le moto, e non so quanto costa. E non avevo nemmeno di 500 euro. Quindi quei tipi che abbiamo preso noi, abbiamo fatto 13, perché... con la mia che abbiamo pagato poco automaticamente l'ho avuto anche là in regalo, diciamo. No, 250 euro, sino 500, 250 euro. Allora, il costo della patente A varia a secondo della modalità che scegli, proprio come nel caso della patente B tramite scuola guida o da privatista con la tua scuola, puoi seguire le lezioni, il costo si aggira intorno ai 250, in cui devi aggiungere 20 o 30 euro per ogni guida. Vabbè, tu una moto sei già portare già, quindi va riflessolo qualche guida e sì, 250, 300 euro, cosa del genere. Bettoli, hanno c'è una notte completa, diciamola, quindi no, non c'è problema, dandole avanti Giulio. Sì, anche perché l'esame l'avevo fatto su a Terrafetta, no? Per la moto, avevo fatto la teoria lì per la patente della moto. E dopo 3 o 4 anni avevo preso la patente della macchina e sempre lì avevo fatto sempre l'esame in allora era aspetta, no, l'esame di guida l'ho fatto in Viale Trento, per la salita, nella salitona di Viale Trento l'ho fatta, mi hanno fatto fare un giretto lì, ma io ormai portavo già la macchina, infatti tornando di scontro il Tonino che ha fatto poche guide, a me non me l'ha fatto fare nemmeno la metà, dovevo farne 24 di guide, ma quella l'ho fatta un fare, 6-7 guide, perché l'istruttore mi ha detto, oh dici, lei non aveva bisogno nemmeno di venire qua perché poteva presentarsi anche privato. Tu pensa che in quel periodo, Tony, nella scuola guida dove ero io c'era anche il mio principale. intanto prima di me, è andato a prendere la patente, ci ha impiegato più di 2 anni a prendere la patente, cosa che era addotto insomma. E io, tanto è vero, andavo il 1100, perché avevo il 1100D allora, che dopo la patente mi sono comprato la macchina, no? E lui era in Lambretta, e operaio dentro il 1100D, e lui in Lambretta, Tony. Quando mi vedevano, e quando vedevano lui, gli operai si facevano la risata. Avanti, Dani. Ma tutti ci portano, E vabbè, comunque non altri tempi. E cosa ci vuoi fare? Io ripeto, l'ho dato anche a voce, perché Pino Antonello mi ha detto, no, tu devi a voce, sei molto studiato, hai studiato, quindi. Ne dirò il giorno dell'esame della teoria a voce. Ho fatto un errore perché sono rimasto un po' pensando, sono preso 3-4 secondi e lui sono un foglio rosso, quindi ricordo benissimo, ha fatto una striscia con segno di matita. Ho detto scusi, io non so niente, un errore. No, devi rispondere subito, va bene? Hai trovato una, fa meglio, veloce, fa quello, me, veloce, va. E me ci cambia, no, se non mi segno un altro errore, c'è un friso. No, devi rispondere subito, grazie a Dio. Me l'ha fatto, se no, 5-6 domande, poi basta, promosso a posto. E tiro, quando ho venuto a guida, giustamente, era un po' in tensione, io ho fare la ragazza, che poverina ha sbagliato, ha preso in marcia a piedi retromarcia, poi vai avanti, la sta perdonando, a dritta le ruote, no, torre in marcia a piede, stai facendo, no, si siede dietro, vado io, esatto. Una strada, senso unico, gira a sinistra, a me andava così, ho messo il freccio, non c'era nessuno dietro, mi sono tutto finito e poi ho saltato. Allora dove San Giuseppe l'ha dato praticamente, se non vado errato, allora se la presente viene in vita che sono i parcheggi delle macchine a pagamento di fatto l'ospedale, quella via di mille non era un senso unico per andare verso Sassari, no, era il contrario, io l'ho dato lì l'esame, ma ti sto parlando sempre del 74. Sì, loro facevano queste domande così trabocchetto per vedere se l'artista che stava guidando, che era sotto esame, se era attento anche per la segnalistica, eccetera. Beh certo, è così. Sì, sì, ma io sono andato perché intanto ero vicinissimo, perché allora lavoravo in via Lomberto, sicché attraversavo praticamente via Roma, attraversavo ed ero già lì, via Giugiazzuni, e mi veniva benissimo perché uscivo dallo stabilimento e andavo a scuola guida, andavo, ma ripeto, di lezioni di guida me l'ha fatto fare 6 o 7, una cosa del genere. Anda 24, detto, se non ci vuoi venire più non fa niente, dice vieni il giorno dell'esame, fatto così facciamo, però ogni tanto ci andavo e allora come siamo messi? Vai, non ti preoccupare, già ti chiamo io, ma boh, quando è il giorno dell'esame, e così è stato infatti. Prendici, mentre invece per mia moglie e per mia figlia, gli ho fatto scuola guida io e l'hanno presa subito, nel giro di un mese hanno preso la patente. Prima mia moglie, che aveva appena 18 anni, eravamo fidanzati, non eravamo nemmeno sposati allora, e poi mia figlia altrettanto, nel giro di un mese anche lì si è preso, il privatista anche lì, e ha risparmiato anche un bel po' di soldi. Solo che per presentarsi alla guida ho dovuto pagare 200 euro a quello di via Nurra che c'era la branca, perché ci voleva la macchina col doppio pedale, no? Ci voleva, perché quando ho preso questa, quando se l'ha preso mia figlia, mentre invece per mia moglie no, lo ho presentato io e basta con la mia macchina direttamente. Avanti Claudio. Prima così, tu immagini, io sono andato senza patente a prendermi la patente. Cerco la mia macchina, ma ho comprato la 126 senza patente. E sono andato all'esame di guida, perché in teoria ero già passato. C'era l'esame di guida, ho parcheggiato fuori, ho dato l'esame di guida, ma è timbrato il voglio rosa e mi sono andato a casa con la macchina mia, figurati. Era un pazzo furioso, per carità. In un momento mi ha giurato la macchina a mamma, senza patente, di sabato. Me lo ricordo come oggi, la 500L nuova, e ho detto ai miei amici, io che andiamo a Sassari, e partimmo, io senza patente, quindi mia macchina e Savi sono più sabbia, io andiamo a Sassari, io guidavo da anni senza patente. Arrivato lì a Ottava, al gambero rosso, allora c'era, no? Non te lo ricordi com'era, la polizia stradale, a Conte Gemoni. Buongiorno, buongiorno, patente, libretto, hai diritto, senza avere pesi la lingua, il libretto glielo do, ma la patente non ce l'ho, l'ha lasciata a casa, mi ha detto, no, non ce l'ho proprio, tutta terra, terra attrezzi, si è pensata la macchina, e mamma vi ha denunziato un furto, oh, i gambo sono arrivati a casa, santo Antonio nostro, delle grazie, chissà che cazzo è gatto, ma... un capo di fumava in questo periodo, quando eri giovane, adesso vabbè sei ancora giovane, ma voglio dire, quando eri ragazzo ti babbo di fumava e per quello. E beh, mamma noi è andato con una metà russa di garabatteso e ti fa male ancora il colpo della cintola, così è claro. Mamma trattava mamma di cintola, no? Mamma trattava le mani bicianti bue da. Se ti sto dicendo che mi ha calpestato, ma tutto gassegato. E ti dico una cosa, che ne sono uscito, diciamo, non pulito pulito, perché mi hanno fatto il processo per guida senza patente, articolo 80 allora c'era, e mi aveva salvato questo giudice, non mi ricordo com'è che si chiamava, perché mamma era bidella nautico, tramite il preside del nautico conosceva questo giudice del tribunale, quindi insomma non ne sono uscito burido burido, ma avevano condannato comunque e ho preso la patente 6 mesi dopo aver fatto il 18° anno, capito, proprio perché non la potevo prendere, perché avevo questa condanna di 6 mesi, ma cosa di lingua, su sarebbe di obbligato, cosa sarebbe, non ha mai pubblicato un capo, ma io mi ricordo con mamma a volte quando scherzavamo, adesso poverina aveva 90 anni, ma per antenamenti la giusta che ti ha detto che tu non hai curato la macchina, e io che ti ho minamento, la mazza che te ne vaia, vai tu lì. Prima ce ne facevo tante cose, però è senza malizia, capite? No, io mi dovevo sempre fotere, ho sempre la patente dopo tanto. Oggi ti ma che ti ha imparato a guidare la macchina? Prova a dare il mulino, freno a mano, mettere il folle, poi mettere la prima, mollare il freno a mano, puntare piano piano, non mi riesci così come tempo io, anche il folle. Poi, quando sta per separare il verde, schiaccio la frizione, metto la prima, mollo il piede dal freno e subito l'acceleratore e vado. E la macchina non torna indietro da sinistra. E tu no, è un bagnetto se faccio così, allo semaforo freno a mano. Mamma mia, quanto sono odiosi quando faccio così, Manco i saliti erano entrati, io freno a mano, ci può essere una salita anche a 45 gradi, accelerato la frizione te la tengo ferma la macchina. Sto dicendo che io sono andato al privatista per l'esame, io quando ero a Porto Torres che abitavo a casa di mamma, studiavo e poi andavo la sera dalle 2 sino alle 7 dai fratelli Mele in via Sassari, c'era la concessionaria, la Fiat, avevo visto in officina, aspettavo la sera per entrarne tutte le macchine dentro, una mi è capitata l'autoscala dell'Enel o Giulio, e mi ha detto signor Piero Mele, non sia Salvatore forse era, mi ha detto Pasquali, mi raccomando, perché appunto si chiamano tutti con nome, Pasquali, mi raccomando, abbassati la scala prima di entrare, sì, sono Salvatore, faccio quella tua scala, era sollevata, ha giubilato in piano la serrata, ha fatto un buco di 2 metri. Ma poi sei poco birbante, birbaccio a quell'età, bobo. Vabbè, si sa, purtroppo quando si è giovane così, si sa, ci sono quelle persone che sono un po' più birbacce di altri. Comunque, sono belle cose da raccontare in queste classi, perché ti fanno rivivere il passato, soprattutto la gioventù ti fanno rivivere. Bene, bene. Sì, certo. Io mi ricordo, eravamo una reffa di una decina di giovanotti, tutti quanti eravamo tutti con la moto, si sa. E nessuno aveva la patente della macchina. All'infuori di un certo Francesco Tano, idraulico, forse Tonino lo conosce, avete considerato che fra elettricisti e idraulici si conoscono un bel po' di persone. E Francesco aveva preso la patente. Io avevo il foglio rosa. Dopo che avevo il foglio rosa, un giorno prendiamo una macchina a noleggio lì a Santa Maria, dove c'è adesso Conte Santa Maria, c'era uno che dava le macchine a noleggio, avevamo preso un maggiolino. E la siamo andati a Osio, ci siamo scesi in una discesa e eravamo una refa, una parte di amici col maggiolino e un'altra parte con il 1005L, una macchina bellissima, bella, blu, di lusso, che era di Cabeccia, l'ex tassista che lui lavorava con la 600 multipla, abusivo, credo che fosse abusivo, e aveva anche il 1005L, e quando lui era a lavoro, lo 1005 lo prendeva il fratello, Gianni, buon'anima, che tra l'altro è morto da poco. E siamo scesi in questa discesa, beh, ti dirò che noi abbiamo dovuto spingere il 1500L per poter salire da questa salita. Con il maggiolino siamo saliti alla grande senza nessun problema. Abbiamo dovuto aiutare il 1005 perché non ce la faceva a salire. Perché non ce la faceva? Ci slittavano le ruote, e come erano nuove, perché era una macchina nuovissima, fiammante, bella. Non capisco come mai non ne siamo riusciti a farla salire da sola. Senza l'aiuto non ce l'avrebbe fatta salire. Avanti Tonino. Ma comunque io rimpiango, diciamo, i tempi che furono, gli anni 70-80. C'era meno malizia, c'era più divertimento, c'erano meno leggi pesanti, eccetera, insomma. A me lo stesso mi hanno sequestrato una Vespa 50, l'avevo comprata da Mario Mariani, esattamente in via Umberto, che era il meccanico, però questa moto l'aveva fatta passare in mio Cabeccia. E ha messo il motore, ha tirato gli scudi, le fiancate, mi ha messo il motore GS175, fatto un gonfio, piombata, e me l'ha venduto 20.000 lire. A seno tempo mi hanno fermato i falconi, devo potevo cipare via le biciclo, dice, questa moto è truccata, ma cosa è truccata il 50, l'ho detto io, ma se ce l'ho vento che me lo aereo, comunque si è sequestrata. E mi ha passato in tribunale. E giustamente io ho detto la verità, cosa è successo. E il giudice ha chiamato stesso polizia municipale, che viene sequestrata la moto, dice, vi siete informati voi? Sì, la moto, il ragazzo non l'ha truccata lui, ma invece il tizio che è sempre lui, l'ha comprata così, eccetera, eccetera. E il giudice mi fa, allora, se la vuoi ritirare la moto, praticamente ti fai 15 giorni di arresto e non so quanta multa, oppure lasci stare la moto e paghi soltanto 7.000 lire di multa. Ascolti, tenetevi la moto e pago 7.000 lire di multa, me la putaccia a me, poi ce l'avevo pagata, ma e altri tempi, dai, comunque non mi ha messo né guida sapendo e niente, perché ero un ragazzino, avevo avuto se no 14-15 anni, ero capito la mia buona fede, ho detto, oh, io l'ho comprata così, prendo la moto e basta. Comunque, fatto sta, meno male che ci sono informati che non l'ho truccata io. E che se no, è proprio l'accusa, cioè il corpo che mi sta potendo la denuncia accesa, invece grazie a Dio non mi hanno fatto niente. Sì, è un periodo che le moto venivano truccate in una maniera proprio esagerata, proprio, no, non ci sono dubbi. Mi ricordo che allora anche quando ero un ragazzo io c'era anche l'Italjet, non so se ve la ricordate Tony. L'Italjet era una moto che si poteva truccare benissimo, ma era una moto che faceva fare anche 120-130 km l'ora, ed era una cinquantina, era 50 di cilindrata. Infatti c'era un ragazzo lì che abitava in via di Santa Marzuni, vicino a casa dove abitavo io, con madre, mamma, e si chiamava Franco, lo chiamava meno Franco Fredda Faccia, buon'anima, è morto proprio con la moto, con l'Italjet. Che era un capice vidato che non finiva mai, un bravissimo ragazzo, però con la moto era spiazzato, era incoscienza totale proprio, non era possibile. L'Italjet, l'hai conosciuta tu Claudio, l'Italjet? Ho avuto io l'Italjet, Berelli, l'Italjet, ero bravo, ciao, poi avevo passato la Vespa 50, poi il Vespone e poi le moto più grosse. No, mi ero Maello, mi Giulio, mi naggio recuperando tutti i rigorori, mi portatore si ricorda di me, mi. Se ti racconto un fatto, te la ridi, ma guarda che mio cognato era una persona maresciallo di Vigio Urbani, ma quando era Vigio Urbano a Porto Torres, io non avevo rubinato di guai, mi avevo fatto di Vigio Urbani, allora Vaviani con i Guzzi, e uno era anche trampato, la banana di Gigi Colombino, che è morto, Burgobetto lo chiamava, Busia si chiamava di cognome, sempre Vigio Urbano, motociclista, ma avevano seguito via Principe dei Piemonte a Porto Torres, in cui mi divero deposito di fare, a Trampadareta, vi abbigliato a chiedere entrato dentro una banca in pressa per non farmi prendere, mi viene combinato in moto, in macchina, non ti dico cosa tutto quello. Quando io lavoravo all'autoparco del comune, mamma era riuscita a farmi entrare all'autoparco del comune per 3 mesi, capito? E praticamente pulivo i tram, no? Pulivo i tram, in officina, vasio, un po' di tutto, un pezzino, fare tutto. E c'era il capo officina e mi ha detto, tu la patente c'hai? Sì, sì, ecco, ma adesso io la patente, e vado da 7 anni, ma come Giambia dove dai? Perché c'era veramente tanta gente, mi ha detto qui, ha detto lì, ha detto là, sì, la patente, fai la cortesia che non c'è il ragazzo, vai da Pasqualino Mameli in via Sassari e ritiri questi autoricambi, questi giunti, queste cuffie che servono, abbiamo un sistema del tram, c'è il tram fermo di linea, sì, io né Marco né Savio, sai che cosa ci ho bigliato? L'ambulanza del Rugomune, c'era un'ambulanza bianca, un 238 bianco, ha giubilato l'ambulanza e sono sceso da Pasquino Mamiri in via Sassari e gli dico, adesso scendo in piazza a farmi vedere, si abbiglia lui, manco fatto apposta in piazza che c'era di servizio mio cognato, assieme a Gavino Cresci, guarda che già è vivo Gavino, che abita lì punti, assieme a Gavino Cresci, perché Gavino è iniziato a Porto Torres e poi si è andato trasferito a Sassi. E era Gavino in piazza Colombo. Io, Marco e Sciavio, mostro io a piazza Colombo e salgo in via Sassene. E all'angolo della piazza del comune c'era mio cognato in servizio. E Gavino mi ha visto e chiama mio cognato. Come? Ah, quello non è tuo cognato. Domenico che mi aveva visto, ha detto no, non è possibile, non è a parte. Dov'è? Ti sto dicendo il tuo cognato, cazzo di rubicino, mamma mia, va bene, con l'ambulanza è lui, ma cosa stai dicendo? Oh, mi ha perseguitato sino all'autoparco, ah, giù mai mi arrestami. Ascolta bene anche questa, stavo lavorando allora alla Fiorentina di fronte all'ufficio vecchio del corso, quando giù in basso, no, quando c'era l'ufficio, e lì arrivavano i lampadari, arrivavano insomma un po' tutto, queste roba di vetro eccetera, no, perché c'era la cassa dell'imballaggio con tutta la paglia dentro, che tutte le volte che noi sbagliavamo il materiale si portava a questa cassa, si portava dove c'è adesso la stazione dei Pulma, adesso, allora c'erano degli urti, c'erano, no? E andavamo lì e poi davamo tutte queste, sia la paglia che le casse di legno, le davamo a quest'uomo che c'era lì in questo orto. Beh, e mi fa, io avevo avuto 13 anni, 14 anni, una cosa del genere, e mi fa il direttore, direttore, lavoravo io, si chiamava Aldo Di Stefano, non so se sia ancora vivo, penso di sì comunque, ma se è vivo avrà manco 90 anni. E mi fa, Giulio, ci andiamo a portare la cassa, andiamo signora, piano piano, no, che piano piano, andiamo con la lambretta, con la lambretta. E come facciamo col carretto? Tu immagini, Tony, il carretto a mano, no? Allora era uno di quei carretti che aveva anche il piede centrale, sicché le stanghe, diciamo così, rimanevano sempre belle in orizzontale, rimanevano. E io, così vuole fare, io andiamo a portarla con la lambretta e mi va, siedi dietro tu e prendi per mano il carretto, piano piano io ti tiro, lui aveva una lambretta di quella tipo monopattino, forse una delle prime, se non addirittura la prima serie delle lambrette. Ogni tanto andavo all'accelerata e dicevo, signor Aldo, vada piano perché se non mi scappa il carretto dalle mani, non ce la faccio a tenerlo. Arriviamo, arriviamo davanti alla stazione, arriviamo, allora lì all'angolo della Provida c'era un rifornitore, c'era di benzina lì. Beh, questo deficiente dà un'accelerata, mi sfugge il carretto dalle mani e incomincia a camminare questo carretto. C'era parcheggiato lì, davanti alla stazione, una giardinetta, quelli con la cassa di legno, con la scocca di legno. E si è entrata la stanga, la giardinetta, si è entrata. Questo deficiente, io che ce ne andiamo. Signorando, ma è una macchina, non ti preoccupare. Ma così, me la puoi stare, io avrò avuto 13 o 14 anni, lui era un uomo minimo di 30 anni. Si cacchia, ma immaginate ogni giornata di cretinata che ha fatto il giorno quel tipo. Sono cose, comunque, vedi, ce la ridiamo, sì, perché in quei tempi era diverso, senza malizia, senza niente, e ci facevano le cose così. Comunque mi è accennato, ve ne molto che io ne ho avuto quasi tutte. Mi è accennato dell'Italjet, una moto bassa, serbatoio lungo, 4 marce, 48, sì, che poi mi dai conferma, hanno fatto anche un'altra uguale all'Italjet, però si chiamava Gogo, che aveva il serbatoio piccolino. Te la ricordi? Certo che me la ricordo, se andavo a vedere sempre le gare, soprattutto a Scala di Gioca, io andavo lì a vedere le gare, cioè era invaso di queste motorine così, e anche di lambrette, di vespe, eccetera eccetera. Fanno far vedere poi dei gosumi, che sono mancanti, come si chiama, che ha il negozio lì a Predanieda, aspetta che non mi ricordo più, quello non ha un osso intero nella sua, cioè risaldato, perché tutti i rossi della battaglia si sono troncati correndo in Scala di Gioca nelle curve, ogni aga giuda. John Pinna, sì, mamma mia, quanto era pazzo e morto quello, andava, la sapeva portare, però ogni trampata ogni tanto. Avanti Claudio. E John Pinna ne ha già costruito un pario a Francesco Delfino, proprio lì, subito dopo la Madonnina di Scala di Gioca, se ne entrava in Italia Banca, c'era anche Masa che è 500. Aggiungerei da quegli altri, ha buttato a becce in campo, le braccia, tutto a bomboglione, mi ricordo era venuta l'ambulanza dell'abice, porca miseria, era bravo, ma sapeva portare la moto, ma era troppo azzardato. Aspetta, mi sta chiamando il tecnico, riprendi Tony. Cappa, se aveva Tullio, aveva 500, quello, diciamo, due tempi, il Kawasaki verde, me lo ricordo benissimo. Invece John Pini aveva il Kawasaki 900 quando scendeva a Scala di Gioca. Lì ha avuto il Gran Turismo, ha avuto il Girera, addirittura il 4 tempi, 48, e ne ha aggiunto in moto, guarda, Vespa 50, Lambretta. Avevo preso una Lambretta da Brazzone Fontana con gli scudi tagliati per la colorata con carburatore 24. E ne ha aggiunto moto Giulio, perché dai, io da ragazzo sempre moto. Ogni 2-3 mesi cambiavo tanto. Niente, prendevo una con parabolante. Avevo fatto una da Enio Frau che c'era Santa Maria, che oggi c'è la pazzeria Vanali. Là c'era Enio Frau che prendeva la moto. Penso l'avrei conosciuto. altri tempi, Giulio. Io sì. Sì, certo, sono ben giocato. Sì, certo che l'ho conosciuto. Ho comprato delle belle cose, anche biciclette lì, l'avevo comprato da Regno Frao, e a voglia. Sì, sì, è vero. Ma era una comica. Una volta, allora si usava, allora c'erano le carrozze lì alla stazione, eccetera, con i cavalli. Ed eravamo negli anni 60 più o meno, dai, 58-60, più o meno eravamo in quegli anni, anzi forse anche prima, forse anche 57, forse anche 56, io ero ragazzino proprio, avevo già avuto 14 anni, 56, là. Beh, e c'erano i ciclisti allora di Sassari, i dilettanti, Umberto Mula, che tutti lo conoscono a Sassari, no, quello che hanno il negozio di igiene alimentare, eccetera. E poi c'era Cano, c'era Cano, Cicino, Flaminio, tutti questi dilettanti, gente fortissima, lì in bicicletta erano tutti dilettanti, dei ciclisti veri. E dopo c'è adesso a Conte Santa Maria, non c'è il rifornitore su, lì, proprio in quella, appena più su. Si mettevano da lì, c'era uno, davano via e scendevano in volata fino davanti alla stazione, facevano le volate, facevano con la bicicletta. Ma guarda che ne scendevano anche a 90 all'ora, come minimo, ne scendevano in tutto corso vicoli. Una cosa spaventosa, a tutta velocità questi ciclisti fortissimi. E dopo un bel po' di giorni, ma almeno 25-30 giorni che facevano queste volate tutte le sere, l'indomani ci vediamo sul giornale, rischiano la vita i ciclisti di Corso Vicolo, da allora boh, quella dei guardi, e non hanno fatto più di queste volate, Ottonini. Le hai riconosciute le volate tu, in bicicletta? Tempo fa, ma parecchio. Tu stai parlando del casino di tempo fa, stai parlando. A te c'è un break, avanti. Allora, buonasera a tutti. Io ho conosciuto Ennio Frao e anche al Zirano, se te lo ricordi. Zirano, pasticceria via Canopolo? No, Zirano, quello che vendeva lo stesso articolo per biciclette. Ah, quello era allora, diciamo, l'incrocio dove c'è il semaforo praticamente. E c'è la contabattina qui che poi ha fallito, ha chiuso. Lì che ci sono le biciclette. Poi lui sta dice a Zirano, sì? Che è anche vicino a Costa Rica. Capa, ce n'è anche un altro Costa Trinità più avanti, non mi ricordo come si chiamava, che quello lì. E altri tempi erano, cavolo. Sì? Mamma mia, comunque ciao Gianni, ben entrato, avanti giù. Ok, ciao Gianni, ben entrato. Sì, e c'era anche Scano lì, dietro l'edicola di Piazza Sant'Antonio, lì c'era anche dove appunto tutti i ciclisti di Sassari, i grandi ciclisti di allora, perché si potevano considerare grandi, perché erano veramente fortissimi, gente che camminava veramente in bicicletta. Basicavano lì, proprio lì da Scano, c'era anche quello, col meccanico delle biciclette. Altri tempi, oggi no, non è più possibile fare certe cose.